le varie iniziative che stiamo presentando in questo momento a Bologna e provincia. Perché c'è per caso quel mese? No, non c'è un, no, c'è, non c'è un mese, c'è una cosa nuovissima, un sempre di psicosfera, allora, però, vero? Sì, no, ma ecco, ecco, raccontami tutto, che io sono interessata e non ne so mai niente. È un'iniziativa italiana che è la seconda edizione ed è diffusa in tantissime città, tra cui la capofila è Parma e Padova. Ah. Io faccio parte del comitato organizzativo nazionale assieme ad Amalia Prunotto, che saluto, di Padova, Parma e Rimini. Ciao Amalia. Ciao. Ciao. Amalia. E abbiamo l'anno scorso iniziato, diciamo, il giorno dell'Epifania, abbiamo avuto questa... abbiamo pensato così di organizzare un metodo di lavoro e incontri e conferenze in Italia che riguardasse il tema delle relazioni del mondo d'oggi, quindi amore 4.0, con tantissime tematiche che vanno dalle relazioni disfunzionali alle relazioni a quelle che sono, non lo so. Okay. È partito così, non... a quelle che sono... scusate, a quelle che sono delle cose molto attuali, come il ghosting, come il poliamore, come diciamo il narcisismo nella coppia e via dicendo. E abbiamo organizzato però quest'anno con Psicosfere 11 incontri con 11 professionisti nel territorio di Bologna e provincia. Che riguarda il tema dell'amore, no? Il tema delle relazioni dal punto di vista psicologico. Stefano, io sono basita, veramente, non pensavo che potesse esserci una serie di incontri così mirata a questo tema, che alla fine d'amore se ne parla sempre, tutti si provano questi grandi sentimenti, però effettivamente ha delle problematicità. Stefano, che dici da dietro il monitor? Che cos'è che ti basisce di questa cosa? Non ho capito. Non pensavo che ci fosse un ciclo di incontri, ma allora praticamente questi ma incontri... Ma ormai abbiamo cicli di incontri su tutto. Però l'amore 4.0, ma perché 4? 4.0 perché si riferisce al nuovo millennio, 4 perché è l'evoluzione, no? Al cubo. Sì, al cubo. Sì. Al cubo e oltre. No, perché al cubo è la terza, quindi c'è anche la dimensione del... mi intrippo troppo, mi sto incoxando troppo. Non ti incoxare. Non mi incoxo. Ma quindi, allora, raccontami un po' più nello specifico la struttura di questi incontri. Vedo che ci sono degli incontri a scadenza ciclica. Ci sono gli incontri vanno dal... Beh, coprono quasi tutto un mese. Quasi alla tutto fine. Un mese, però assieme alla possibilità di... andare a qualsiasi incontro, cioè non che c'è un limite, sono tutti gratuiti. E sono tutti gratuiti? Sì, diciamo con tanti patrocini, a partire dal Comune di Bologna, dalle istituzioni biblioteche, dall'UDI, Unione Donne Italiane. Sì, quindi hai mosso tutta un'enorme rete avete mosso un'enorme rete di contatti. Ma scusami, questi appuntamenti che io vedo qui sono tutti a Bologna oppure riguardano anche le altre città che hai nominato prima, Parma e Padova? No, nelle altre città, Parma e Padova, si possono vedere sul nostro sito, uh-huh, diciamo di Amore 4.0, che è www.amore4.0.net. Ok, va ma bene. 4.0 come è scritto? 4.0, cioè, numeri col punto. Numeri col punto? No, qua tutto a lettere. 4.0. Eh sì, perché se gli metti il punto diventa un gran casino, perché è dopo zero. Il sito diventa qualcos'altro. Che però da domani su www.coxospaziale.blogspot.com ci sarà il sito per andare poi a curiosare. Ma sì. Quindi questo ciclo di eventi nelle altre città sarà imminente oppure avrà hanno partito, sono partiti a febbraio. Non era male, hanno partito. Scusa. Però. Ma no, è che ormai si parla così. È il linguaggio 4.0, anche quello, 4.0. Capito? Scusate, è a febbraio e terminerà tutto verso la fine di aprile. Ma comunque io ho qui il flyer che prontamente il mio co-conduttore Stefano Super W Pasquini mi ha passato e vedo anche i titoli degli incontri che sono anche molto simpatici. Possiamo dare una scorsa? Sì. Allora c'è ad esempio la comunicazione velenosa nella coppia, quali antidoti? Oppure essere single per scelta o per paura? Il triangolo dell'amore, l'impegno, intimità, passione. Vivere e separarsi. Cioè li stai leggendo tutti? Non altro tutti. Che no, a caso, a caso. Sto andando un po', sto saltando un pochino di qua, un pochino di là. E sembrano incontri squisitamente mirati a temi specifici. Sì, assolutamente. E quindi voi avete individuato specialisti dei diversi ambiti che hanno avuto... Sì, alcuni sono soci, sono psicologi, psicoterapeuti dell'associazione e poi abbiamo come super ospite, diciamo, il dottor Roberto Cavaliere che è un psicologo, psicoterapeuta che ha studi in tutta Italia e che lavora da anni su questi temi, ha pubblicato... E il suo intervento qui a Bologna è appunto quello, uno di quelli che avevo già letto, triangolo dell'amore, impegno, intimità e passione. Sì. E quasi quasi potremmo provare a, giusto per avere un esempio di come potrebbe essere uno di questi incontri, potremmo chiedere a lui un approfondimento. Certo. E allora Pasqua, perché non mettiamo un brano così proviamo a contattare telefonicamente il dottor Cavaliere? Chieda moglielo. Era mattina presto e mi chiamano alla finestra. Mi dicono Francesco, ti vogliono ammazzare. Io domando chi, loro fanno cosa. Insomma prendo tutto e come San Giuseppe mi trovo a rotolare per le scale. Cercando un altro Egitto. Fuori tutto calmo, la strada era deserta. Mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto mia madre inginocchiata in equilibrio su un camino. La strada adesso è piena di persone. Mia madre è qui vicino. Un uomo proprio all'angolo, vestito da poeta, vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra, prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo, c'è un buco. Per appenderle dove, dico io, intorno al collo. E adesso per la strada la gente come un fiume, il terzo reparto celere controlla. Non c'è nessun motivo di essere nervoso. Ti dicono agitando i loro sfollagenti. E io dico non può essere vero. E loro dicono non è più vero niente. Lontano, più lontano degli occhi del tramonto. Mi domando come mai. Ah, adesso sì che mi sento meglio. Ciao Stefano! Bello ritornare da questo lato. sì. Ma che bella musichina che avevi scelto. Che cosa? Vuoi più microfono anche tu? Ah no, è che non c'era, non ce l'avevo. Ah no, è solo le tue cuffie, non sento niente. Quelle cuffie, infatti non sentivo neanche la musica di sottofondo, in realtà, ma c'è. Ah, c'è. E allora salutiamo. Forse non l'avevo neanche abbassata. Salutiamo, infatti, mi sa di no. Salutiamo Homo Mini Loops che sta fornendo le musiche di sottofondo per questo splendido coxo. E questo splendido coxo è il coxo 258 ed è interamente dedicato a Amori 4.0, viaggio nel mondo delle relazioni di oggi, che è una serie di un ciclo di incontri che avranno luogo a Bologna dal 18 marzo al 18 aprile, organizzato da, ricordiamo un attimo l'organizzazione, Roberta, scusami, Letizia. Associazione Psicosfere, però c'è anche una perché vede il comitato nazionale. Sì, perché poi vede anche il concorso di altre due città, Parma e Padova. Sì, ma anche Roma, anche Milano, se non però in questo brochure non ci sono. Non ci si sono. Trovano su quel sito che vi ho www.amori4.0.net, tutto a lettere. E per ritornare al tema di questa rassegna che avrà luogo a Bologna, abbiamo in linea il dottor Roberto Cavaliere, che parteciperà alla rassegna l'8 aprile con un incontro. C'è ancora dottor Roberto? Ci sono. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei, grazie a lei. E quindi prima abbiamo dato una scorsa ai titoli degli appuntamenti e ci piacerebbe chiederle un po' come è organizzato il suo intervento. Allora, l'intervento verterà su quella che fino adesso è stata la teoria scientifica più validata sull'amore, ed è la teoria di Robert Sternberg, che è il massimo studioso americano nel settore della psicologia dell'amore. Lui parla del triangolo dell'amore, delle tre componenti che ci dovrebbero essere in ogni relazione: impegno, intimità e passione. La passione si definisce da solo che cos'è: passione affettiva, sessuale, un po' banalmente le farfalle nello stomaco. L'impegno è la progettualità di coppia, che non sempre, soprattutto di questi tempi, c'è. E l'intimità è la condivisione di valori all'interno della coppia. E all'interno del breve seminario che terrò a Bologna, appunto, lunedì 8 aprile, si parlerà di queste tre componenti, ma si parlerà soprattutto delle 8 relazioni che nascono dalla combinazione di queste tre componenti, anzi, più che dalla combinazione delle tre componenti, dall'assenza di una delle tre, perché spesso averle tutte e tre insieme, che gettono le basi appunto di una relazione sana e duratura nel tempo, è sempre più rara, ma mentre tende sempre a mancare una delle tre, producendo appunto 8 tipologie diverse di relazioni. E si partirà da questo. Sono troppo curiosa, quali sono queste 8 diverse? Però effettivamente se le svelo tutte, non possiamo spoilerare. Io dico che le persone non vengono al seminario, ad esempio le faccio giusto, ne accenno a un paio. Ad esempio possiamo avere l'infatuazione, dove è presente solo la passione, e mancano le componenti dell'intimità o dell'impegno. Possiamo avere l'amore vuoto, che è c'è l'impegno ma è privo di intimità e di passione, che accomuna ad esempio molte coppie che hanno l'impegno a stare insieme ed andare avanti, ma mancano di quella componente della passione e dell'intimità, intimità intesa come condivisione di valori, di tempi e di spazi, che è molto comune in tante coppie che, nonostante manchino appunto queste due componenti, tendono ad andare avanti nel tempo per un'incapacità di separarsi. Poi non voglio aggiungere altro, perché ci vediamo l'8 aprile. Altre tipologie di relazioni, sì. Ci vedremo l'8 aprile, in particolare con il professor Cavaliere alla biblioteca Ruffilli alle 17.30, ma per questo poi noi del COXO faremo dei promemoria specifici nel corso delle prossime settimane. Abbiamo qualche altra, visto che abbiamo l'occasione di avere il professore qui con noi, abbiamo qualche altra domanda da rivolgergli? No, però credo che durante la serata il dottor Cavaliere ci parlerà anche dei suoi libri, dei suoi ultimi libri per la Franco Angeli. Sì, ringrazio la collega la collega Letizia per aver nominato i miei libri, sì, in particolare i due libri che sono usciti per la Franco Angeli, uno nel 2017 che è un libro sulla dipendenza affettiva e non solo, dal titolo Se non mi amo non ti amo, e si parte appunto dal presupposto che si è capaci di amare l'altro soltanto se si ha la capacità di amare se stessi. E il secondo libro che è uscito nel 2018, che è un libro di esercizi, che si intitola Quando l'amore non basta più, perché l'amore appunto non basta più ad un certo punto affinché la coppia duri nel tempo, affinché la coppia continui nella sua progettualità, nel suo ciclo di vita. E questo secondo libro vuole essere un libro più pragmatico, più concreto, fatto appunto di esercitazioni in tal senso, e qualche esercizio verrà svolto anche simpaticamente all'interno del seminario stesso. Bene, gentilissimo, ricchissimo di dettagli e super curioso di conoscerla sia di persona che dalla cattedra che dalla pagina scritta. La ringrazio. Grazie mille per essere stato con noi al COXO e ci rivediamo in aprile quando verrà a trovarci qui in città. Grazie. Buona a voi. Serata. Grazie Roberto. Arrivederci. E per continuare con il tema, questo amore 4.0. Amori 4.0. Io scusami, cara Roberta, appunto. No, vabbè, che c'era una Roberta Ricci, Roberto Cavaliere, sono andata in confusione, ma io di tradizione almeno uno o due gaffini a puntata le devo fare, no, vabbè, questo lo sai. L'ho già fatta. Lo sai, adesso abbiamo fatta e quindi possiamo andare avanti giù dritti, si spera. Però abbiamo qui appunto due super mega galattici ospiti qui in diretta per questa 258esima puntata del COXO dedicata ad amori 04, insomma non c'era 4.0. Stefano, dillo anche tu. 4.0. Ok. Anche Google potrebbe dirlo forse. 4.0. E abbiamo di là dal vetro appunto Maria Letizia Rotolo e Fabrizio Romagnoli, che anche loro hanno degli interventi. Dico bene? Sì, sì, e beh, abbiamo almeno uno a testa. Almeno uno a testa. Vuoi partire tu, Fabrizio? Che è uguale. Posso dire io il titolo? Se sì. Così magari lo leggo con qualche errore. No. Allora, Fabrizio presenterà il suo intervento il 6 aprile. Sì. E si intitola L'arte di amare. Sembrava fosse amore e invece. È un titolo, diciamo che è un incrocio tra due titoli che già esistenti, diciamo L'arte di amare di Eric Fromm, il libro, e Sembrava fosse amore invece era un calesse del film conosciuto. Diciamo che in questo convegno, questo incontro, cercherò principalmente di parlare dell'importanza della parola amore, che spesso è diversa da quella che noi consideriamo come amore. Perché spesso noi tendiamo a considerare la parola amore come un qualcosa di coercitivo per certi versi, come un qualcosa che o dipendo dalle mie pulsioni e quindi dipendo da quella cosa e non posso farne a meno, o contemporaneamente magari dipendo dalla mia morale, dalla mia etica che ho dentro. E quindi comunque sia rimango incastrato dentro una situazione. Questo non è amore. Il possesso non è amore. Possedere l'altra persona non è amore. E quindi l'obiettivo principale di questa cosa è proprio che è l'arte di amare. Cioè l'amare non è un qualcosa che limita la libertà, ma anzi l'amore è libertà. E quindi lavorerò durante tutto questo incontro. In realtà ancora non so neanche io da che parte iniziare e da che parte finire. però credo a noi del Cox piace tanto, sì, ma la psicologia, ma forse anche tutta la filosofia è parte di una creazione sul momento, quindi creare anche qualcosa con chi verrà all'incontro, quindi in base a quello che ci questa sarà. Questa cosa qui mi incuriosisce molto di questi incontri, se si tratterà principalmente di incontri con una sorta di lezione frontale tra virgolette, o se ci saranno degli scambi e quindi diciamo, o se ci saranno degli scontri. Scambi, scontri, tutte no. Cose con la S. Beh, anche gli scontri fanno parte un po' della dialettica, quindi ben vengano anche gli scontri. Ma insomma, saranno degli incontri in cui anche chi verrà potrà fare delle domande. Sì, in parte sarà un po'. Ma ci fate anche i test? No, non credo che faremo test. Ma il prossimo anno volevamo fare il test del tipogramma erotico amoroso. Wow, no, perché io rompo sempre le scatole a Letizia tutte le volte che viene se ci fa dei test. E allora ero un po'. Potevo portare. Sì. Mannaggia, anche stavolta. E va bene. Ma non ho capito, Fedora, che cos'è che devi imparare su te stessa? No, ma. Mandiamo un brano? Sì. No, cosa sono sti urli che fa il tuo amico Loopy Loop? Com'è che si chiama? Omo Mini Loops. Omo Mini Loops. Meravigliosa. A me non dispiace. Infatti. Mi ha chiesto per favore di non mettere mai come primo ascolto le canzoni dove canta, che per me sono molto belle però. Però Omo Mini Loops è un po' così. Com'è che si dice in Veneto? No, tira dovrei. Il sasso e sconde il braccio. Butta il sasso. Non mettere mai dove canta. Ok. Ma potrebbe essere ora di fare un po' di menzioni. Dici? Sì, e che fra l'altro le dovete leggere tutte voi. E chiediamo magari anche all'ospite silente di leggerne una. L'angolo della menzione. L'ospite silente. Tra l'altro mi sono accorto che le tue menzioni mancano delle mie, però va bene lo stesso. Sì, infatti, la tua non c'era perché avevo già finito di copiare. Cominciamo subito da domani, per cui dobbiamo già fare una telefonata. Sei in grado di fare una telefonata? Puoi fare mettiamo un brano? E che telefonata devo fare? Me l'ha scritto adesso, ha detto chiamami che sono qua con ma l'artista. Devi darmi il numero però. Certo, te lo posso dare. Va bene, metti il brano e darmelo. Te lo do dal vivo? No, metti il brano, ma io c'è l'appuntamento per chiamare. Ma insomma, vabbè. Sì, c'è, vai tranquillo, è lì che aspetta. Letizia, Maria Letizia Paiato. Ah, quella Letizia. Certo, quella Letizia che noi conosciamo. Bene. Hai messo un brano? Questo è un brano? No, non l'ho messo. Se non lo metti tu, io non ce la faccio. Va bene, sei tu, scusami. Quindi. No, perché se vuoi, leggo. Intanto, vuoi che leggo già la menzione? Lo prendo come un no. Going stupid. From my point of view, I could shoot it just like Cupid. She moving her boots like she don't know where her boo is. Tell her bring her friends, cause I know just how her crew get. She and all her friends, they got the same style. I know just how they did it, then I know that they wild. I was standing next to them, I seen them make out. They don't need no 7 inches, they need 8 miles. Girl's going dummy. She got some ass shots, but I took them from her tummy. She make that bag drop. Where my girls getting money? Where my hoes getting dough? Pussy dripping and it's raining like it got a cold. She not a hoe. Got her legs to the sky, she a fly girl. All the boys talking shit in the corner. But no, they can never be my girl. As if you can even brag. I got some bad bitches with me, so I need to brag. Stacey, Katie, she say she's such a lady. She shake it for the baby. I got her going crazy. Play with your children, bitch, I'm a grown-up. Got the kind of pussy make a nigga put this on up. Now he creeping, sleeping with a demon, mother Jezebel. Tasmanian devil on the dick, I send him straight to hell. Tattoo on my booty, pull my pony, set my cutie mark. Spooky dick, we up under the cover, glowing in the dark. Rolling up, he say he feel a spark, I gotta pull the plug. Ain't no dick on earth that's got to trick me into showing love. Treat him, never keep him, call him later, maybe not. I forgot, I was busy, dizzy, feeling super hot, I'm super sickening. Get this money, take another trip again. You don't really want want me, you just live for my adrenaline. Like the way I move it, making movies, make you lose it. Find another bitch to do it. Ed eccoci qui, prontissimi con questo scattantissimo ed elastico 278esimo Cox. Ho detto bene il numero, Stefano? Sì. Secondo me sì. E chi abbiamo qui in linea in diretta con noi? Aspetta, devo fare prima la menzione. Non devo fare prima la menzione. No. Sì. L'angolo della menzione. Ripartiamo da capo. Domani è sabato 16, che è domani, alle ore 18, l'artista Acqua Aura presenta in anteprima Ferrara il suo nuovo video Where the Lost Things Are 2019, cuore della mostra Paesaggi Curvi, a cura di Maria Letizia Paiato e Chiara Serri, che abbiamo al telefono. Ciao! Sì. Ciao! Yeah. Ma c'è anche Acqua Aura, te lo dico! C'è anche Acqua Aura, te lo dico! Ha detto! Sì, ha detto. L'avevate così! Sentito? E passacela, ma non ho capito, ma Acqua Aura che nome è? È un bel nome, però, eh? Te lo dice Acqua Aura? Abbastanza subacqueo. No, ma lo devi dire tu, Acqua Aura, perché se no lo dice Chiara Serri. Sì, si vergogna. Ma siete in viva voce per caso? Che è quella più equilibrata in questa macchina. No, ah, perché siete in macchina. Siamo in macchina, stiamo per andare a mangiare lo storione in provincia di Ferrara, esattamente a Runco, te lo dico. Bene. Attenzione agli autovelox, ve lo dico io. No, ma il velox lascia perdere. No, ma non andiamo su quella strada. Ma avete il viva voce per caso? Eh sì, abbiamo il viva voce, siamo in 5 in macchina. Ah, cavoli, perché si sente un po' pochino. Come facciamo? Urlate più forte. Poco. Urlate. Muovo più forte! Sì, così. Ok, allora, chi è Acqua Aura? Te lo dice Chiara Serri! Ciao, Chiara Terry. Serri. Cherry. Serri. Serri. Non si sente niente. Passatevi senza viva voce. Prendi il telefono in mano, Chiara, perché sennò non ti sentiamo per niente. Grazie. Così mi senti? No. Togli viva voce. Così ti sento. Così mi senti? Eccola. Ecco, ciao, benvenuta al Cox. Però un cavolo, perché... Perché sta guidando lei. Come? Mi sento un cavolo io, questa è la verità. Ho il telefono rotto. Fantastico. Proviamo a cambiare, a chiamare qualcun altro. Aspetta, stai buono. Dammi un secondo. Ti do un secondo. No, io intanto leggo la continuazione della menzione. Aspetta, ecco qua. Aspetta un attimo. Cosa leggo? Ce l'abbiamo. Mi senti adesso? Ti sento benissimo. Ciao, benvenuta. Allora, abbiamo Chiara Serri, finalmente. Può dire chi è Acqua Aura, Dai, dici chi è sta Acqua Aura e poi perché mai dovremmo andare a Ferrara domani. Allora, dovete venire a vedere la mostra perché è bellissima. Ah, ok, questa è già una buona... D'arte. Ah, è un nome d'arte? No, è davvero? È un nome d'arte di un artista, sì, che ha scelto di assumere questo nome per cambiare un po' il suo percorso, quando ha intrapreso una nuova strada. Guarda che qua il microfono... Che era una strada legata a cosa, questa nuova strada? Allora, Acqua Aura allude a una trasformazione alchemica, quindi l'artista che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso dopo quello degli anni 90 ha scelto di acquisire questo nome. Tra l'altro c'è anche l'allusione a un cristallo di rocca e il ghiaccio, questo aspetto è uno degli elementi importanti della sua ricerca. Adesso vi ripasso Letizia però. Molto bene, ma l'appuntamento è a Palazzina Marfisa d'Est. Per dire che lei non ha più voglia di parlare di cose serie. Esatto, cosa c'è lo storione che sta arrivando? Io vi dicevo, l'appuntamento è domani alle 18 alla Palazzina Marfisa d'Est, ma poi alle 19.30 ci si sposta alla Sinagoga Grande. Alla Sinagoga, sì, che viene per la prima volta usata per l'arte contemporanea. Ma infatti, è riaperta dopo il terremoto. Grandi. Ma perché? Perché? La domanda è perché? Allora, perché? Intanto perché viene appunto riaperta dopo essere stata chiusa per un sacco di tempo. E quindi è nata, siccome voglio dire l'opera di Acqua Aura, Chiara correggimi, parla anche della cultura ebraica. Allora è venuto naturale proporre questo lavoro in sinagoga, anche perché questo stesso lavoro è stato l'anno scorso alla sinagoga di Reggio Emilia in una mostra curata proprio da Chiara, e quindi si pone un po' in continuità con l'operazione dello scorso anno, e il fatto ha voluto insomma che coincidesse anche con la riapertura alla città di questo spazio straordinario. Ma posso chiedere una cosa riguardo i contenuti della mostra? Si tratta di un set installativo, sono tele, scultura, non lo so, perché le presentazioni possiamo che dire Stefano set sono... installativo, Chiara? Molte opere sono multimediali, quindi ci sono video, video installazioni sonore, sculture. Ok, e, dai. E poi anche opere, diciamo, più fotografiche, anche se proprio fotografiche non sono. Interessante. Senti, è una roba seria, qua si parla di cambiamento climatico, ecologia, eh? Quindi poi oggi era anche la giornata per... certo. Quella cosa là, prima, quindi c'è una roba seria. Tutta la mia famiglia ha scioperato ed è andata in piazza oggi. Beh, allora ringraziamo tantissimo le nostre ospiti telefoniche e soprattutto buon appetito. Buon appetito. Senti, allora noi ti mandiamo un saluto collettivo da questa macchina dove c'è l'artista Acqua Aura, la moglie Chiara Seri, io, ma io c'ho anche la mia socia Marcella Russo, hai capito? Che domani sera poi te la metto alle calcagne, Stefano, te lo dico. Ah, fantastico, subito. Bene. Quindi ti faccio rompere le scatole, ciao. Molto ciao. Bene, a domani allora. Come avrete... mi raccomando. Ma certo. Ciao. Come avrete capito, domani sera vado a Ferrara a vedere questa acqua. Certo che domani vieni a Ferrara, perché se no veniamo noi a Bologna e ti facciamo del male. Sì, ma quando voi dite ciao dovete smettere di parlare. Ah, vabbè, ok, ciao. Ciao. Bene, ciao. Ciao. So what do you care to know? Coxicos, no vabbè, insomma oggi mi sta andando fucking coxico. Mi sta andando tutto un po' così oggi. Come va, Stefano? Come sta andando sto coxo? Sta andando, non lo so, in realtà sono già passati 39 minuti e pensavo che non ho capito niente. Stavamo menzionando. Hai ragione, stavamo menzionando. E io non ce l'ho neanche le menzioni, perciò dovete menzionare tutto voi. No, ma adesso ce lo menziona Fabrizio. Ok. Giusto? Vai. Giusto, sabato 16 dalle 20:30 Live Set Party Lab Almedanza, un laboratorio di ricerca sui rapporti tra la percezione corporee, le dinamiche spaziali, l'improvvisazione espressiva e la musica elettronica, nonché le possibili derive verso un contest of urban dance come momento di socializzazione. Ok, vai con Cicciu. Ah, sì? Sì, ma non dovevamo, perché non sono loro. Questo è Goatto. Project by Anna Bertarelli e Roberto Passetti. Okay. Che anche se a leggere è un po' così, in realtà è una gran figata. Io ci vado, ma... e se siete fighi, venite anche voi. E io non ci vengo, poi ti ma tu non fai i balletti, tu non fai balletti, no, ma io tu devo vai andare alle mostre, a mangiare acqua. Che questa cosa dell'acqua adesso comunque mi ha lasciato un po' così. Come prosegue? Prosegue benissimo. Adesso Letizia ci legge là, quella dopo. Domenica 17. Domenica 17 dalle 15 alle 18 l'eccesso Mambo. La performance dei fratelli Broche a cura di Adiacenze, che porta al Mambo il tema della produzione umana dei rifiuti, intrinsecamente connessi con quelli dell'eccesso e dell'accumulo. Ingresso gratuito. Che voce! Meraviglia, meraviglia! E poi? Dopo abbiamo l'ultimissima? Sì, alle 17 invece a Forlì abbiamo Microscopiche numero 3. Ma fogli. No. Questa è la tua! Certo! Ma ti sei infilato, scusa! Ah, giusto, hai ragione. Cosa ti posso dire? Infiliamoci, me ne sono infilato con altre due, per cui preparati ad altre due. Allora, una mostra personale di Elena Mersky, composta da libri d'artista e archivi di serie di lavori dal 2011 al 2019. Per cui io domenica al pomeriggio vado al mare e poi dopo mi fermo a Cesena, perché questa è a Cesena. Facciamo così, che magari gli incisi li stringiamo un attimino. Una quelli sera che soltanto, una mostra di una sera soltanto all'interno dei suggestivi spazi dello studio Guerri, via Braghettina 830, San Vittore di Cesena. Via Braghettina, oh, ciao Maxè, cosa vuoi che ti dica? Invece, passiamo alla settimana successiva. Ma no, andiamo a domenica che c'ho l'evento, no, quando è? Venerdì prossimo. È venerdì, infatti. Sappi che alle 19 c'è inaugura a Gelateria Sogni di Ghiaccio Hair of the Dog di Adam Crusis. È un solo show, non c'è scritto nient'altro, per cui l'unica cosa che so è che è in via Tanari Vecchia 5A 40121 Bologna alle 19 venerdì 22, Adam Crusis. Mentre invece alle 21, un po' più tardi, Hamza al Palazzo Minerva, che è quello che credo che tu avessi. Con ordine, quindi venerdì prossimo 22. Ok, marzo, dai, che io non la leggo. Alle ore 21, sì. Hamza al Palazzo Minerva, in scena a Minerbio, la favola musicale di Maria Genovese con musica di Andrea Piromallo. E io ci tenevo tanto perché, fra l'altro, abbiamo qui in linea, se sono ancora qui, ci siete Maria e Piro? Andrea? Ci siamo. Benvenuti al Coxo. Grazie. Allora, quindi, diteci qualcosa di questo spettacolo, nonostante la presentazione un po' eccentrica del mio caro W. Stefano Pasquini. Vuoi che legga la trama? Hamza ha 11 anni ed è scomparso a Saida in Siria durante una manifestazione nel cuore della primavera araba. E qui mi fermo e lascio a voi la parola. Cosa succede? Allora, lo spettacolo è ispirato a una storia vera, la storia di questo bambino che è scomparso effettivamente nel corso di una manifestazione in Siria, proprio nella primavera araba, è diventato un po' il simbolo della primavera araba in Siria, ma la particolarità della sua storia sta nel fatto che praticamente c'è la versione del regime secondo cui il bambino si sarebbe perso durante la manifestazione, caduto, morto, decomposizione, per questo ha dei segni molto pesanti sul corpo. Secondo i ribelli e secondo la voce del fanatismo, perché c'era questo in quel momento, invece sarebbe stato arrestato dal regime e per questo torturato, massacrato, e questo spiegherebbe i segni che si sono trovati sul corpo di questo bambino. E dal momento che tutti quanti raccontano favole, noi abbiamo deciso di raccontare la nostra, quindi c'è la nostra storia di Hamza. Ah, molto interessante. Cioè, il tema è estremamente duro, pregnante, presente ai noi. Esatto. E questa cosa di moltiplicare, quasi elevare alla potenza questa affabulazione mediatica che attorno ad ogni evento si produce è estremamente significativo dal mio punto di vista. Ma anche perché appunto è un modo comunque per provare a parlare di quello che succede, perché in fondo di cosa succede in Siria non si sa molto e abbiamo avuto anche delle difficoltà a ricostruire la storia, proprio perché ci sono proprio frammenti di quello che è successo ed è difficile e complicato capire che cosa succede da quelle parti e perché. E quindi dal momento che è tutto così confuso, così difficile da capire, appunto abbiamo preferito dare la nostra versione un po' di tutto. Allora, adesso una domanda che si scosta un po' dai contenuti e va un po' più nella direzione della patina. Di che tipo di spettacolo si tratta? È una lettura? Sì, è un po' reading. La particolarità è che è tutto in rima baciata. Là là! Grandissimo sforzo di composizione. Ma l'hai scritto tutto sì, tu? Sì, perché vuole essere una filastrocca. Grandioso! E in questo gioca un grande ruolo, a quanto comprendo, anche la colonna sonora. La musica, infatti. E quindi per questo c'è Andrea. Ok, chiediamo anche al compositore. Chiediamo anche ad Andrea un po' come è stato inventare, come è stato ispirarsi e creare le sonorità per uno spettacolo di questo tipo. Però ce lo deve dire in rima baciata. Lo fa lei. No, molto molto bello per me come esperienza dedicarmi a costruire appunto l'atmosfera giusta per quello che comunque Maria andrà a interpretare, e soddisfazione da sia veramente personale per il risultato che sono riuscito a ottenere. Poi poi siccome i musicisti sono sempre i musicisti sono sempre un po' così, che lasciano parlare la loro attività, e quindi noi salutiamo Maria ed Andrea con proprio un brano tratto dalla colonna sonora dello spettacolo, così abbiamo anche un'anteprima. Addirittura. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Allora ci si vede la settimana prossima a Minerbio. Ci si vede a Minerbio. Ci si vede a Minerbio. Buon lavoro, ciao. Anche a voi, ciao. Affabulazione mediatica. Narration médiatique. Media storytelling. Teniamo in sottofondo il brano creato da Andrea Piromallo per Hamza, lo spettacolo che andrà in scena a Minerbio venerdì prossimo. E ritorniamo a noi con questo sottofondo. Effettivamente si può anche parlare d'amore, d'amore 4.0, e l'ho detto giusto! Ho scambiato per il principe azzurro. Cosa ha detto Google? I exchanged the coat rack for Prince Charming. Ops, ho scambiato l'attaccapanni per il principe per azzurro. Il principe sì, azzurro. Ma non mi confondere, perché quello è l'intervento della Roberta, non della Letizia. Esatto, della Roberta Ricci, che salutiamo tanto e che aspettiamo a Coxo Spaziale. Ciao Roberta. Mi aveva Ricci. Promesso che sarebbe venuta a tutte le puntate, poi non l'ho mai più vista. Ma va bene così, è il bello del Coxo. Rinascere quando... liberandosi dai nuovi vampiri, narcisisti e manipolatori, sono io? Questo è un incontro un po' pesantino. C'è anche un'avvocatessa, l'avvocata Ursuleo, e in cui parliamo proprio del narcisismo patologico, che insomma se ne parla tanto, e anche del vampirismo. Che il nome è così, è un po' pop, no? Fa pensare a tutte, però in realtà dietro ci stanno cose ben chiare e precise, sì, con una connotazione, un profilo che insomma ci aiuterà a identificare probabilmente. Certo. E soprattutto non è soltanto maschile, no? Mm-hmm. Il narcisismo e il vampirismo, c'è anche femminile, quindi non è una visione un po' a 360 gradi. Quali sono un po' come i rischi, no? In questo tipo di relazione? Quali sono i rischi sia a livello psicologico che anche a livello legale che a livello fisico? Poi, come venirne fuori, quali sono le varie tappe per la rinascita? E poi strategie di sopravvivenza. Ma proprio sopravvivenza bisogna. Sì, perché ci sono casi in cui magari ci sono genitori e quindi bisogna avere comunque un rapporto con il vampiro, il nuovo narcisista, e quindi come impostarlo, oppure magari ci sono bisogna avere dei rapporti di lavoro, un'attività insieme. Ma posso farti una domanda? Sì. Che magari non mi puoi rispondere, però come terapeuta tu hai tratti molto questo tipo di patologia, si può chiamare? Narcisistiche? Ma diciamo che nelle terapie di coppia, perché più diciamo le persone che subiscono il narcisista patologico, perché di solito in terapia vengono poco. I quelli che ce l'hanno. Sì, vengono poco. Però nelle terapie di coppia si vedono. Cela semblait être de l'amour à la place. Sembrava fosse amore, invece. Ed invece? C'è ed invece che cos'era? Eufonica. Ma che cos'è quando l'amore non è amore? Ma l'ha già detto prima, non può dirlo. Che cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Diciamo che è più facile definire che cos'è non è, cosa non è l'amore che cosa è l'amore. Allora diciamo. Vi faccio una domanda a tutte e due: perché ci innamoriamo delle persone sbagliate? Anzi, la faccio a Fedra, perché ci innamoriamo delle persone sbagliate? Guarda, io adesso non vorrei entrare in conflitto con i nostri ospiti. Conflitto di interessi con l'ospite silenzioso. No, con i nostri ospiti, ma comunque ho un sacco di idee. Fra l'altro, con tutto quel poco che è stato espresso qui dai nostri ospiti, sono pienamente d'accordo e con tanta sofferenza ci ero arrivata anch'io. Quindi grazie. Ho un sacco di idee. Vorrei. J'ai plein d'idées. Dimmi. Allora, il nostro primo incontro invece parla dell'amore, della sessualità in età senile. Ah, ecco, questo comincia ad interessarci. Quando scatta la senilità in amore? Da che età? Ma diciamo 38. Così però rientro anch'io, dai, 39. Dai, non lo so, dai 65. Ok, dai, altri 2-3 anni ce sì, li abbiamo. Sì, ce li abbiamo ancora, teniamo botta. Quindi questo è il nostro primo incontro. Io Ok, il 22 che è. Sì. È fra, Ambra è fra Cavina, poco. Anche. Ambra Cavina. È già venuta al Cox, l'ho già sentita Cavina. No, è venuta la. La aspettiamo, no, è venuta la Licia Vicinelli, che salutiamo con la comunicazione velenosa nella coppia. Quale antidoti? Lei è sempre tostissima comunque. Sì, molto tosta. Esatto. E poi è venuta la Roberta Ricci, che appunto è quella che ha scambiato l'attaccapanni per il Principe Azzurro. Spero che questo non sia successo quando è venuta a Corso Spaziale, ma non credo. Ma è venuta anche la Marzia Zunarelli, giusto, che la parla dei distacchi, dell'esperienza dei distacchi e come, diciamo, sentire... È quello interessante, infatti, sì. Vivere è separarsi, perché effettivamente lutti, c'era stato qui su Radio Città Fujiko una trasmissione intera sull'elaborazione del lutto inteso in senso ampio, sì. Molto interessante, perché effettivamente c'è un sacco di gente che non è in grado di elaborare il lutto di qualunque tipo, anche solo della propria auto. Ma io vorrei dire l'ultima frase. Anch'io vorrei che tu dicessi l'ultima. Poi dopo me ne vado. Che è meglio. No, scherzo, no. No, è che il Cox è agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli, però. Dobbiamo dai. Lasciare gli ascoltatori con frasi estremamente significative. No, volevo solo dire questa frase, che è una frase tratta da un film, che sarà poi l'inizio del mio convegno, che è: perché amare se perdere fa così male? Non ho più risposte, solo la vita che ho vissuto. Due volte nella mia vita ho potuto scegliere, da bambino e da adulto. Il bambino scelse la sicurezza, l'adulto sceglie la sofferenza. Il dolore di oggi fa parte della felicità di ieri. Questo è il patto. Ci vorrebbe un gingolino, qualcosina. Ci vorrebbe tipo un gingolino così. Beh, allora, Il 250, no, 270, 200, se non sbaglio. 58? 250, mi risulta adesso, 258, sì, assoluto. È stato un coxo ricchissimo. Un coxo ricchissimo. Che adesso voglio ringraziare tutti quelli che ci sono stati. Io poi faccio mille gaffe. Lo vuoi fare tu? Lo faccio io. Ringraziamo Maria Letizia Rotolo e Fabrizio Romagnoli che sono stati qui con noi. Naturalmente ringraziamo anche i nostri ospiti il dottor Cavaliere telefonici, che appunto sono stati il dottor Cavaliere, non solo Maria Letizia Paiato e Maria Genovese e anche Andrea Piromallo. Esatto, e ringraziamo anche il nostro direttore che con queste parole ci si accommiata. E anche Homo Mini Loops per la musica di sottofondo. Homo Mini Loops, è giusto, aspetta che l'ho perso. Ecco, con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Ma non ce l'abbiamo la sigla. Che però non c'è. Pensavo che ce l'avessi tu. Sei e tu che sigla metto? Ma che ne so, se vuoi la metto io. Ma io metto il nastrone. No, metti il nastrone. Dai. Vai. Ciao. Ciao.